Libertà non difende, libertà non capisce, libertà ferisce, non vede la luce del giorno e la sua vita è una vita di fango. Chi ribellarsi non sa, liberarsi non può, prigioniero è del mondo, seguirà ad occhi chiusi tutte le tempeste del vento. Ma tu vola, amore, amore, amore, amore. Tu sei la stella che brilla in ogni mare. Tu non sentire le sirene, tu non le ascoltare. Tu che di libertà ti nutri, sei un raggio di luna, un fiore di sole. Chi libertà non difende, libertà non si aspetti, libertà non pretendi, farà pugni sempre col vento e la sua vita sarà tormento. Chi per paura nasconde il presente, difende il niente del niente, sarà in balia della corrente che spezza il cielo, che umilia la gente. Ma tu vola, amore, amore, amore, amore. Tu sei la stella che brilla in ogni mare. Tu non sentire le sirene, tu non le ascoltare. Tu che di libertà ti nutri, sei un raggio di luna, un fiore di sole. Chi libertà non difende, libertà non capisce, libertà ferisce, non vede la luce del giorno e la sua vita è una vita di fango. Ma tu vola, amore, amore, amore, amore. Tu sei la stella che brilla nel mio cuore. Tu non sentire le sirene, tu non le ascoltare. Tu che di libertà ti nutri, sei un raggio di luna, un fiore di sole. Ma tu vola, amore, amore, amore, amore. Tu sei la stella che brilla nel mio cuore. Tu non sentire le sirene, tu non le ascoltare. Tu che di libertà ti nutri, sei un raggio di luna, un fiore di sole.